Simpaticissima, piacciamo oppure no. Sangue nella dance floor, ci ballerò, anche se è soltanto un altro stupido. Sexy boy, io ci sto. E domani non lavoro, quindi ce ne siamo distesi. Sopra soldi già spesi, colazioni francesi, con gli avanzi di ieri. Se non lo facciamo me lo immagino. Dovrei, non dovrei dirti che ho visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me. Mon amour, amour, ma chi baci tu? Io farò una strage stasera, ballo tra le lampade sfere. Lei piace sia a me che a te. Ho visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me. Mon amour, amour, ma chi baci tu? Disperata e anche leggera, vengo per trovarti. le castel ne precipitan. Te stai vestendo consapevole che ti ha sfuggia. Pur un male ci fa bene, insieme. E ti diciamo spera di sta per sempre, insieme. E ti, no, no, no, come si fa? No, no, no, a te scorda. Per me non posso fare sincerti, vedere la vendita. A felicità quando costa si sorda una buona carta. Ti sprecate di ma parla. Nulla si pensato mai che all'inizio la storia era già fine la storia per noi. Oggi lascia sta guardare quando giove perché sei dispiaciuto per me e per te. Picciomo se inizia una giovane zilma di estane da c'entrare e stiamo pensando a tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho preso. Non posso fare ritardo e per me tu per te. Così ti impressiona, prima in classifica ma non mi importa. Mi sento l'ultimo come persona. L'ultima volta che ho fatto un pronostico è andata a finire che mi sono arreso. Sai che detesto che citi l'oroscopo, ma non sai quanto con me ci abbia preso. Ti prego abbassa la voce, voi da sta casa ci cacciano proprio. Ormai nemmeno facciamo l'amore, direi piuttosto che facciamo l'odio. Ora ti sento distante, io schifo il mondo e tu guardi. Cercavo una verità che è sempre in mano ai bugiardi. Aiutami a sparire come c'è. Eri proprio tu la cattiva. Hai detto ti amo, l'hai detto ridendo sotto una luna d'argento. Non lo vedevo che stava finendo. Eri super come la Nintendo. Mamma, mamma, mamma che ho. Stavolta non mi chiama e non ho spento l'iPhone. Quando un'altra notte cala non mi dire di no. Se tu non ci sei più, I love you, I hate you. Mamma, mamma, mamma che ho. Un fiume scende giù sotto gli occhiali. gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Qué la cosa! ¡Ya vamos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Y yo soy gitana, la van a envidiar. Baila como diosa, así no volver. Put your fucking hands up.